Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo che per il terzo giorno consecutivo parliamo della legge sulle elezioni primarie in Calabria e segnatamente stiamo mettendo sotto i riflettori questo articolo 9 che dà la possibilità di andare al voto per scegliere il proprio candidato governatore della regione, ma è un voto che avviene in maniera non segreta e che dà adito, secondo le durissime prese di posizione che abbiamo sentito nei giorni scorsi da parte dei magistrati antimafia, ad un rischio di controllo del voto stesso e condizionamento da parte delle cosche all'interno e all'esterno dei seggi dove si va a votare. Oggi ne parliamo con il professor Andrea Morrone, costituzionalista dell'Università di Bologna. Buongiorno professor Morrone. Buongiorno a voi. Allora, lei è un costituzionalista dell'Università di Bologna, ma ci tiene anche a dire che questa sua opinione nulla ha a che vedere con il suo ruolo di consulente con la Regione Calabria, così? Sì, io sono un costituzionalista, esprimo delle opinioni di carattere scientifico e anche se sono un consulente della Regione. Benissimo. Le mie opinioni non impegnano la Regione. Allora, veniamo al punto. Questo articolo 9 è molto molto criticato finora. Lei invece che opinione si è fatta di questa mancata o meno segretezza del voto e che opinione ha sulle possibili infiltrazioni delle cosche nella libertà e nella segretezza del voto stesso? Distinguerei innanzitutto le primarie dalle elezioni. Qui non si va a votare per eleggere il governatore, ma si consente ai partiti di selezionare tra i vari aspiranti il candidato di partito che ciascuna forza politica vorrà poi presentare alle elezioni. Quindi si tratta di primarie e non di elezioni. Quindi da questo punto di vista il diritto di voto, articolo 48 della Costituzione, riguarda le elezioni, non le primarie, perché le primarie restano un fatto privato gestito dai partiti politici, i quali selezionano a seconda delle diverse anime i possibili candidati e li sottopongono ai loro iscritti o ai simpatizzanti. Ecco, ma un fatto privato che però ha una manifestazione pubblica è tutelato, come chiedevo prima, nei confronti dei condizionamenti esterni in questo modo, a suo giudizio? Non c'è dubbio, guardi, il partito politico esercita funzioni pubbliche e in quanto soggetto che esercita la funzione pubblica, cioè presentare i candidati alle elezioni, non è più un soggetto privato, ma un soggetto che agisce nell'interesse pubblico. Ora, la funzione di questa legge è essenzialmente questa: non lasciare la disciplina delle primarie alla libera disponibilità dei partiti, ma regolarle in maniera formale, centralizzata, perché tutte le forze politiche si sottopongano a questo processo che in tutto il mondo, basti guardare agli Stati Uniti d'America, è considerato come un metodo democratico di selezione della classe dirigente. Che poi ci possano essere, attenzione, forme di controllo dall'esterno e delle candidature e, diciamo così, del modo di formazione della volontà pubblica, questo riguarda tanto le elezioni quanto qualsiasi forma di primaria. Cioè, non cercherei di demonizzare questa legge come l'unico strumento perché le associazioni di stampo mafioso o camorristico possano controllare il voto, ma questo è un problema che riguarda qualunque sistema. Assolutamente, anche se questo è probabilmente potrebbe essere una sponda in più di tentativo di infiltrazione, almeno secondo la lettura di molti esperti. E le volevo chiedere questo, e quanto alla replica invece alla denuncia, dei magistrati, degli appartenenti alle forze dell'ordine, di dire: ma se io voglio andare a votare non posso farlo perché poi alla fine il mio status me lo impedisce. Ecco, lei che cosa replica sul punto? Molto semplicemente, io ho un'opinione della magistratura stringente. I magistrati non devono avere opinioni politiche, devono esercitare la loro funzione nella segretezza assoluta. Quindi questa pretesa di alcuni magistrati di voler manifestare pubblicamente le loro opinioni politiche, le loro appartenenze, ma di volerlo fare, diciamo così, non pubblicamente, è un po' contraddittorio, sia con il fatto che appunto esistono già le correnti nell'ambito della magistratura e quindi tutti i magistrati appartengono a questa o a quella forza politica e quindi già si sa sostanzialmente. Secondo dato, questo collide, questo sì, collide con la Costituzione, che stabilisce che chi esercita funzioni pubbliche non deve, diciamo così, essere iscritto a forze politiche. Insomma, un po' di ipocrisia da parte di chi vorrebbe andare a votare, pretenderebbe anche la segretezza, ma in realtà, insomma, già si sa a quale corrente o pensiero politico di fatto appartiene. Io ringrazio il professor Morrone per il suo intervento e ora voltiamo pagina. Ed eccoci con il professor Antonino Spadaro, professore di diritto costituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Buongiorno professor Spadaro. Buongiorno a lei. Allora, lascio a lei i motivi di incostituzionalità di questa legge. Partiamo dall'articolo 9 e poi vediamo gli altri profili. Parliamo della segretezza del voto, per molti violata. Sì, in effetti molti si sono soffermati su questo punto, che è il più clamoroso naturalmente, il più estremo, ma non è l'unico aspetto di legittimità. Già è stato detto molto bene da alcuni magistrati, Cisterna, Macri, Pennisi, perché ci troviamo di fronte a un atto illegittimo. È una legge che espone la persona che vota ovviamente a indicare anche il proprio orientamento politico. E è evidente che il principio di segretezza del voto non è soltanto riconducibile all'atto formale nel chiuso dell'urna del voto sul candidato, ma all'atto preventivo, alla procedura nel suo insieme, nella quale c'è un'esposizione pubblica del proprio orientamento politico, ecco, violandosi nella sostanza del principio di segretezza. Ecco, ma come può esserci uno scivolone così clamoroso su aspetti che abbiamo sentito raccontarci dal dottor Macri, ad esempio quello in base al quale determinati rappresentanti dello Stato, penso appunto ai magistrati, agli uomini delle forze dell'ordine, non è che possono davanti a tutti esprimere il proprio orientamento politico? Com'è possibile che un legislatore, seppur regionale, sì, non tenga in considerazione queste cose, che credo che siano l'ABC della Costituzione, almeno così penso? Lo so. Guardi, è una domanda cattiva, perché io non voglio minimamente, come dire, ledere o offendere alcun collega. Resta il fatto che è incomprensibile. Tenga conto che la stessa legge, lo stesso articolo 9, dice nel punto 6: è vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore. Che è paradossale, perché è evidente che se io chiedo la scheda rossa perché voto centrosinistra, o la scheda blu, che poi ecco l'urna blu perché voto centrodestra, o la scheda verde perché dell'Italia dei Valori, di qualcos'altro, io mi faccio identificare. Certamente. Quindi questa prescrizione, nello stesso articolo 9, è un'excusatio non petita e quindi è un'accusatio manifesta. Esattamente. Cioè, chi ha scritto il testo si è reso conto del rischio, però non lo risolve così. E guardi che si risolve invece subito. È sufficiente consegnare una semplice scheda unica comprensiva di tutte le indicazioni di coalizione e di partiti. Dopodiché, se non si vuole evitare, se si vuole evitare trasversalismo o confusione, si può considerare annullata la scheda se io voto per più di un candidato, per più di una coalizione. Io sono cattivo, ma lei è ancora più cattivo di me, perché in questo modo vuol dire che è stata una cosa voluta, quella della, guardi, manifestabilità. Guardi, di due righe, non costerebbe niente farlo e sarebbe la risoluzione di questo problema della segretezza. Certamente, prima. Certamente. Però ci sono altri problemi, guardi. Il primo dubbio che io ho è quello del fatto che si prevedano primarie obbligatorie. Cioè, anche primarie, se loro intendo dire, prego, i politici regionali si difendono dicendo no, non è vero che sono obbligatorie nella misura in cui la regione, cosa di cui non abbiamo parlato, prevede un contributo a quei partiti che fanno. Mi perdoni, questo attiene al carattere vincolante. Non, ecco, no, ma questo non lo dico io, è la difesa che viene portata dai politici. Sì, sì, ma dico, ma sono due cose diverse. Io non ho nulla in contrario che siano vincolanti, cioè se un partito sceglie liberamente di aderire alla primaria deve essere vincolato al voto. Assolutamente sì, a quel punto certo. Ma qui si rendono obbligatorie le primarie, cioè si fa soggiacere tutte le forze politiche, si fanno soggiacere tutte le forze politiche in nome del principio di democraticità interna al meccanismo delle primarie, il che, mi perdoni, non mi pare legittimo, perché primo, la democraticità interna di un partito non è assicurata solo attraverso le primarie. Un partito può avere modalità diverse e comunque democratiche di selezione della candidatura. E poi un partito può scegliere di fare primarie chiuse, non primarie aperte, cioè primarie riservate solo ai suoi iscritti. Assolutamente, certo. E diciamo, questa è la formula più semplice, più ordinaria, più fisiologica. Chi può fare politica lo deve fare iscrivendosi. Un secondo dubbio E perché si fa la primaria, se si crede nello strumento delle primarie, io ci credo, ma fate bene. Allora, se si utilizza lo strumento delle primarie, perché solo per il Presidente della Giunta e non anche per i consiglieri? Il testo numero 70 del 2004 della Toscana lo prevede anche per i consiglieri ed è il modello di riferimento di quello calabrese, quindi non si capisce perché solo le primarie per il Presidente della Giunta e non anche per i consiglieri. Anche qui, ripeto, ci sono forti dubbi sullo strumento democratico quando è limitato. E poi c'è un ulteriore dubbio, cioè il fatto che è precluso al cittadino elettore di esprimere una preferenza per più di una lista o una coalizione. È evidente che ci sono ragioni di etica politica per cui se io voto per il centrosinistra sceglierò il candidato del centrosinistra e non quello del centrodestra. Ma siccome stiamo parlando di un atto pubblico gestito con legge pubblica, di un servizio pubblico con finalità costituzionalmente conforme, come si fa a impedire a me di scegliere anche eventualmente il candidato di una coalizione che io poi non voterò? Si può verificare che nella coalizione che io non voto si candidino due persone, una per bene e l'altra un delinquente. Perché io non posso contribuire alla scelta del candidato per bene? Eh sì, effettivamente i motivi, diciamo così, i dubbi sono tantissimi, è stato impossibile forse sviscerarli tutti, ma ciò che premeva fare era accendere i riflettori su questa legge. Abbiamo sentito che questa legge l'ha fortemente voluta, abbiamo sentito che questa legge l'ha fortemente criticata, abbiamo sentito anche dei pareri super partes da parte di chi c'è questa legge non ha nulla né da perderci né da guadagnarci, come appunto è il caso dei magistrati che abbiamo sentito, Macri e Cisterna, e del professor Spadaro, che colgo l'occasione per ringraziare per il suo intervento. Dico la stessa cosa in regia a Filippo Aureggi e in redazione a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.